ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. Grecia, il campo di Moria, Lesbo in fiamme, l'Europa a nudo, Afghanistan, l'attacco al vicepresidente, Cina e la guerra dei media. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. Moria is a really depressing place to be. It is a heartbreaking place. By the time that Xi Jinping became leader, he had decided that China's moment is now. Quiet. I'm not going to give you a question. You are fake news. Buona giornata e ben ritrovati, ascoltatrici e ascoltatori, una nuova puntata di Nessun Luogo è Lontano, con tanti temi, tutti molto molto caldi, che la grande attualità internazionale ci ha restituito nel giro di pochissime ore. Parleremo della dramma che sta avvenendo a Moria, il gigantesco campo migranti nell'isola di Lesbo, vicinissimo, di fronte alla Turchia, e delle risposte europee piuttosto timide e pallide finora rispetto a questi tragici eventi. Ci collegheremo in diretta da Lesbo per capire le ultimissime. Parleremo di Afghanistan, l'attacco al vicepresidente Saleh. Non era la prima volta che il vicepresidente afghano veniva preso di mira. I talebani smentiscono, rimane naturalmente il mistero, il punto di domanda su chi siano gli autori di questo attentato che ha provocato diversi morti e decine di feriti. E poi Cina, perché continuano a proiettarsi una serie di ombre particolarmente inquietanti su quello che è il ruolo e il nuovo isolamento di Pechino rispetto alla comunità internazionale. Realizzato come? Beh, consapevolmente o forse inconsapevolmente in alcuni casi, ma soprattutto a colpi di media, di giornali, di fake news, di troll. Di questo parleremo nell'ultima pagina di Nessun Luogo Lontano, e ve lo anticipo con un autorevolissimo osservatore. La squadra di Nessun Luogo, ve lo ricordo, Antonio Taglia, Valentina Ternullo e Andrea Macchioni, in regia c'è Roberta Frisani, con loro abbiamo confezionato questa puntata di Nessun Luogo, che non può iniziare prima di aver misurato la temperatura. La temperatura dei dossier internazionali più caldi, lo ricordiamo, sono vecchie puntate di Nessun Luogo è Lontano, fatti e notizie che arrivano dai quattro angoli del globo, che magari diventano nuovi aggiornamenti qui, oppure puntate ex novo. Partiamo dalla Bielorussia, perché la scrittrice e giornalista Svetlana Alexievich ha denunciato che alcuni sconosciuti avrebbero tentato di entrare nel suo appartamento di Minsk. La scrittrice, che è premio Nobel per la letteratura, è sostanzialmente l'unica dei membri del consiglio dell'opposizione bielorussa, così recita l'ANSA, a essere ancora libera. Perché? Perché ultimo colpo di scena. Sapete che tante leader donna dell'opposizione bielorussa stanno vivendo ore particolarmente inquietanti, o sono in carcere o sono dovute fuggire. Bene, stamattina uomini a volto coperto hanno catturato anche Maxim Znak, lo hanno riportato diversi media russi. Il dossier bielorusso continua a campeggiare qui sulle nostre scrivanie e siamo certi che avrà molto presto sviluppi. E poi era passata un po' in sordina, in realtà, perché verrebbe da dire che è quasi una non notizia. Si è celebrato in Arabia Saudita il processo per l'omicidio del giornalista dissidente Jamal Khashoggi. Gli imputati sono stati condannati in via definitiva, erano 5 gli imputati, a 20 anni di prigione anziché la pena capitale, altri 3 a pene che oscillano tra i 7 e i 10 anni. La notizia arriva direttamente dalla procura di Riyadh. Molti osservatori hanno detto: attenzione, questo è stato assolutamente un processo farsa. Per quale motivo? Innanzitutto non è nota nemmeno l'identità degli imputati, e questo già, come dire, farebbe storcere il naso, sostanzialmente come prendere dei pupazzetti, incolparli e poi rispedirli a casa, se è stato fatto almeno questo. Agnès Callamard, responsabile ONU per le esecuzioni extragiudiziali, ha detto che il verdetto saudita sul caso Khashoggi non ha alcuna legittimità legale o morale ed è una parodia della giustizia. Tra l'altro si è fatta sentire anche la Turchia, che è il luogo in cui è avvenuto, o meglio, che ospita l'ambasciata saudita dove è avvenuto quell'efferato omicidio. Ha detto che questo giudizio è lontano dal soddisfare le attese della Turchia e della comunità internazionale. L'ultimo dossier merita decisamente un maggiore approfondimento perché ha a che fare con la potente esplosione che è avvenuta questa mattina nel centro di Kabul. Il vicepresidente afghano Amrullah Saleh è rimasto illeso, era in auto col figlio, però vi sono morti, vi sono decine di feriti. L'attacco bomba ha raggiunto il vicepresidente afghano proprio questa mattina, vi dicevo. Mentre il vicepresidente è sopravvissuto, il portavoce del Ministero dell'Interno, Tariq Aryan, ha dichiarato, ed è un bilancio ancora provvisorio evidentemente, 10 persone uccise, 16 rimaste ferite, tra cui, come immaginate, anche molte guardie del corpo del politico afghano, il quale si è presentato in un videomessaggio pochi istanti dopo, mostrando lievi ferite al volto, ma dimostrando appunto che l'attacco era fallito. I talebani hanno immediatamente negato il coinvolgimento nell'attacco. Ricordiamo che Saleh aveva ferocemente criticato i talebani anche in passato, era stato vittima, per fortuna era scampato, di un attacco durante le presidenziali dell'anno scorso. Insomma, decisamente l'Afghanistan non è un paese per politici. Chi lo conosce molto bene, il nostro ospite Stefano Pontecorvo, già ambasciatore italiano in Pakistan, ora è Senior Civilian Representative della NATO in Afghanistan. Ambasciatore Pontecorvo, buongiorno, benvenuto a Nessun Luogo. Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori. Intanto grazie della disponibilità, le chiedo innanzitutto a caldo che cosa significa questo attacco, che idea si è fatto e se la, il respingere a mittente qualsiasi accusa da parte dei talebani è credibile o meno. Guardi, è una tattica dei talebani, adesso che Saleh sia un nemico giurato ai talebani, come lei ha detto, lo è da 20 anni, lo è anche uno dei più, come dire, vociferanti e dichiarati. D'altro canto, in questo paese purtroppo dal punto di vista terrorismo non si fanno mancare nulla, dall'ISIS all'AIKA, al-Qaeda, ad alcuni gruppi talebani stessi che non sono favorevoli all'accordo di pace, sì. Ci sono circa una ventina di sigla che qui operano, quindi ancora presto per fare attribuzioni. Ho visto che il Ministero dell'Interno, qui noi stiamo facendo le nostre valutazioni, ma non siamo ancora arrivati a conclusione come NATO. Sì. La voce che state ascoltando, l'analisi, il commento di Stefano Pontecorvo, Senior Civilian Representative per la NATO in Afghanistan, già ambasciatore in Italia, in Pakistan, scusate, appunto ambasciatore italiano, grazie alla sua esperienza proprio di quei teatri scopriamo innanzitutto questa galassia, questa miriade di formazioni terroristiche o potenzialmente terroristiche. Dico potenzialmente perché l'accordo fra Stati Uniti e talebani imporrebbe ai talebani stessi la non copertura di tutte quelle falangi, di tutte quelle sigle che potrebbero macchiarsi di attacchi. E la domanda che le faccio allora, ambasciatore, è proprio questo: colloqui di pace, progressivo ritiro delle forze internazionali, peraltro il presidente statunitense Donald Trump potrebbe parlare a brevissimo nella giornata di quest'oggi annunciando un ulteriore ritiro, si sta lasciando un vuoto che potrebbe essere facilmente colmato anche da questa galassia molto pericolosa a cui lei faceva riferimento? No, guardi, non ancora, su quello siamo proprio tranquilli, in quanto alla riduzione dei numeri non corrisponde una riduzione delle capacità operative. Quindi la lotta antiterrorismo continua, gli afghani la stanno facendo con noi dalla NATO e con le truppe americane, quindi a medio termine non è un pericolo che si pone. D'altro sì. canto la NATO è venuta qua dopo l'11 settembre per evitare un altro 11 settembre e attacchi simili, sì. Quindi sarebbe, come dire, imprudente da parte nostra lasciare quel vuoto che lei paventa. Certo. Ambasciatore Pontecorvo, l'ultimo punto che vorrei brevemente toccare con lei riguarda lo scambio di prigionieri, che è uno degli asset fondamentali per procedere ai colloqui, quello dei prigionieri talebani in mani governative e viceversa. Quasi 5.000 prigionieri sono stati rilasciati finora dalle forze di sicurezza afghane, c'è riserbo per gli ultimi 100 prigionieri che sarebbero considerati molto pericolosi. Recentemente anche alcuni paesi stranieri come l'Australia per esempio si sono messi un po' di traverso dicendo attenzione, qua si liberano dei leader, dei comandanti che in battaglia si sono fatti valere e potrebbero, come dire, essere pericolosi. Come vede questa trattativa per il rilascio dei prigionieri? Anche qui un potenziale pericolo o è sufficientemente monitorata? Guardi, non posso spingermi a dire che è sufficientemente monitorata. Uno degli impegni che i talebani hanno preso è quello di far sì che i prigionieri rilasciati non tornino sul campo di battaglia. Sì. C'è dell'evidenza aneddotica che dice il contrario, ma non vi sono prove. Per quanto riguarda i prigionieri di cui lei dice, sono quelli rilasciati finora sono 5.600, sì. E c'è una discussione in corso su un certo numero di coloro che sono stati rilasciati, per comparare i nomi, per paragonare i nomi, non è sempre facile trovare l'identità esatta di coloro che sono rilasciati, quindi credo che siamo alle ultime battute e che tra poco significa probabilmente entro i prossimi 10 giorni, i negoziati interafghani possano cominciare. E questa potrebbe essere decisamente una buona notizia per il martoriato paese. Ringrazio tantissimo l'ambasciatore Stefano Pontecorvo, Senior Civilian Representative della NATO in Afghanistan, al quale auguro un grande in bocca al lupo e un ottimo lavoro. Ambasciatore, buona giornata e alla prossima. Buona giornata e a presto, grazie. Interessante anche l'aspetto, forse per i più strettamente tecnico, il riconoscimento dell'identità, cioè andare a stabilire se il talebano nelle mani delle forze di sicurezza, che corrisponde a un certo nome, sia poi quello che si è distinto in maniera con le nefandezze, con tutto il potere e la carica benefica che possono avere quei combattenti sul campo di battaglia. Non è facile, sembra tornare indietro di alcuni secoli, ma l'Afghanistan ci ha abituato esattamente a quel tipo anche di conflitti, di conflitti a bassa intensità, a volte ad altissima intensità, in cui la tecnologia cerca di irrompere e aiutare le forze di sicurezza a limitare i rischi e i pericoli, ma quelle altissime, freddissime, caldissime insieme montagne e quei combattenti che sostanzialmente, non vorrei dire infradito, ma quasi, quei sandali, riescono a mettere a volte sotto scacco anche le forze di sicurezza. Decisamente sono un impegno gigantesco e enorme. L'Afghanistan lo è la grande sfida per l'Occidente, lo è stato dal 2011, anzi dagli anni 90 in poi, e vedremo se quel paese troverà pace. Questo è il nostro termometro internazionale e adesso tocca andare sull'isola di Lesbo, nel campo di Moria, perché poche ore fa accadeva questo. Moria is a really depressing place to be. Moria è davvero un posto deprimente. Quando è stato costruito, l'idea era di ospitare non più di 3.000 persone, ma ha raggiunto il picco massimo di 20.000 presenze. C'è stato un grosso incendio stanotte, l'incidente più serio mai visto finora a Moria, e il campo è praticamente distrutto. Sono al campo di Moria, il mio nome è Ahmed, vivo nel campo di Moria. Oggi è mercoledì 9 settembre e sono le 2 di notte. Dove vivo è scoppiato un incendio. It's under control, all. So you don't know if it was just an accident or if someone actually set the fire on? I don't know something. You must speak to the leader and you must call later. Questa è la copertina curata da Valentina Ternullo e Roberta Frisani, che ci fa entrare quasi fisicamente nel campo di Moria. La scorsa notte è stato devastato da uno o più incendi, ancora non è certo. Peraltro in chiusura proprio della nostra copertina sonora avete sentito, qualcuno di voi forse l'avrà riconosciuta, la voce del nostro Andrea Macchioni, che oggi, vera e propria testa d'ariete, si è scontrato con, come dire, un certo muro di gomma da parte ellenica, perché la voce che avete sentito era quella dei vigili del fuoco, la stazione proprio di Moria, che è intervenuta, dicevano tranquilli, è tutto sotto controllo, ma adesso di più non posso dire. Poi vi farò sentire un'altra interessante telefonata, cioè, come dire, una volontà di abbassare sicuramente i toni da parte delle autorità elleniche. Perché? Perché il campo di Moria era una bomba a orologeria, lo sapevano tutti, lo dicevano tutti i principali reporter che visitavano quell'isola, ed è accaduto quello che molti si aspettavano. Sulle cause però di questo accadimento c'è ancora un alone di mistero, benché sui social si siano diffuse le teorie più disparate, da quella che siano stati i migranti stessi a piccare il fuoco, a quella che siano stati alcuni abitanti dell'isola di Lesbo sotto stress ormai da tempo per la eccessiva presenza dei migranti. Intanto però il ministro greco alla CNN, credo il ministro dell'interno, dice: probabile atto doloso nel campo di Moria, aspettiamo però indagini più precise. Intanto il governo greco, e qua lo riporto nell'agenzia, ha dichiarato lo stato di emergenza per 4 mesi. Cosa significa stato di emergenza? Innanzitutto una riunione presieduta addirittura dal primo ministro Mitsotakis. Atene ha inviato forze di sicurezza, compresa la polizia, personale antincendio, lavoratori pubblici per sostenere l'isola e tutti i richiedenti asilo. Al momento non si hanno notizie di decessi, tra pochissimo con la voce in diretta proprio da Moira cercheremo di capire meglio intanto se questo bilancio, speriamo appunto non si aggiorni mai, è corretto. Poi vi do conto anche di quelle che sono state le risposte europee, in primis la Germania, la cancelliera Merkel o lei di persona, tramite portavoce o i suoi ministri, è come se in maniera immediata prendesse posizione immediatamente su tutti i dossier internazionali che hanno a che fare con i diritti umani. Dal caso Navalny a questo, stiamo parlando di 12.000-13.000 migranti, quando il campo è stato costruito per ospitarne 3.000, pensate un po'. Comunque la Germania si è fatta sentire, il portavoce del Ministero dell'Interno tedesco, dopo un colloquio che è venuto fra Seehofer e il collega greco, dice: sono 12-13.000 persone che non hanno più un tetto sulla testa, fra questi 400 minori non accompagnati. Il governo tedesco ha offerto aiuto, il campo non è più utilizzabile, però per fortuna appunto non ci sono né morti né feriti. Dal punto di vista europeo si è fatto sentire invece il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, ha detto: le immagini che arrivano da Moria sono devastanti, dobbiamo mobilitarci per sostenere donne, uomini e bambini che hanno bisogno di un tetto immediatamente, questa è un'emergenza umanitaria, l'Europa deve mostrare la sua solidarietà. E poi naturalmente non sono mancate anche le reazioni da parte del terzo settore, tragedia che si sta consumando a Lesbo, simbolo del fallimento delle politiche adottate dall'Unione Europea e dagli Stati membri nella gestione delle crisi migratorie negli ultimi anni, così senza mezzi termini. Paolo Pezzati è il Policy Advisor per le emergenze umanitarie di Oxfam Italia. Ho fatto riferimento a un'altra telefonata del nostro Andrea Macchioni, ha provato a chiamare la polizia per capire se, aggiungo un tassello, alcuni dei migranti erano positivi al Covid, a questo punto sono stati tutti evacuati, vi sono state anche evidentemente delle fughe quando la polizia è entrata, ha invitato tutti a fuggire perché è andato tutto letteralmente a fuoco, così Andrea Macchioni ha provato a chiamare la stazione di polizia di Lesbo per capire quali fossero le novità. Vi faccio sentire un piccolo estratto di questa conversazione. Ne piacere. English? No English? Μήνυμα χωρίς χρέωση από την Κοσμοτέ. Η κλήση σας. Εδώ παρακαλώ. Καλημέρα. Do you speak English? I'm looking for someone that can speak English. Good morning. What do you want? Hi, I'm a journalist. I'm calling from Italy, from a radio based in Milan. And I just wanted to have, if possible, some information about the situation on Moira Camp. Everything is good. Allora, al di là della barriera linguistica, everything is good è piuttosto emblematico di come, almeno dal punto di vista pubblico, la polizia di Lesbo abbia voluto comunicare invece quella che è a tutti gli effetti un'emergenza, che proverà a raccontarci con un po' più di dettagli e soprattutto di informazioni aggiornate Giovanna Scaccabarozzi, referente medico di MSF a Moria, isola di Lesbo, Grecia, siamo a poche miglia dalla Turchia. Dottoressa Scaccabarozzi, buongiorno e ben ritrovata a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno. Allora, ci può descrivere intanto la situazione in queste ore? Allora, dopo ovviamente lo scenario apocalittico di questa notte, di tutto in fiamme, persone in fuga nella notte, eccetera, stamattina siamo venuti e siamo ritornati dopo con le prime luci e abbiamo potuto innanzitutto constatare il danno enorme che l'incendio ha provocato nel centro. Tutta la parte, la struttura diciamo recettiva iniziale che ha una capienza per 3.000 persone è andata praticamente completamente persa, ridotta in macerie, così come punti d'acqua, ne è sopravvissuto solo uno e ci sono ancora 5-6.000 persone comunque ancora bloccate qui, sì. La maggior parte anche delle tende è andata persa. Quindi la situazione è estremamente precaria. Sì. il fuoco si è, diciamo, è stato messo sotto controllo, ma c'è ancora molto vento e si vedono ancora tracce di fumo, quindi non siamo completamente diciamo sicuri. Sì, sì, ci sarebbero ancora alcuni focolai, è il caso di dirlo, questa volta in senso strettissimo. Dottoressa, come si è mossa la macchina dei soccorsi greca? È stata tempestiva e più efficace al di là della comunicazione invece che ha rivolto nei nostri confronti? Allora, quello che possiamo dire è che noi siamo stati in contatto durante la notte, sì, con l'ospedale e il servizio d'emergenza, i quali non hanno ricevuto allerte, siamo stati noi a informarli innanzitutto nel cuore della notte, e questo è già un dato significativo. Loro comunque non hanno ricevuto, diciamo, un sovraccarico di feriti, pazienti, ma anche semplicemente persone in stato di panico, sì, che sono la stragrande maggioranza, per il quale avevamo offerto comunque disponibilità di personale. Quindi ciò non è successo perché semplicemente è stata creata una barriera tra Moria e la città e letteralmente nessuno è riuscito a varcare, tra i migranti in fuga nessuno è riuscito a varcare questa barriera. Sì. Abbiamo confermato con i servizi ambulanza che ci sono stati alcuni trasporti. Quindi non posso confermare che sia stato negato il servizio di trasporto per casi, sì, urgenti, sì, ma credo che questo accesso sia stato possibile solo dalle prime ore del mattino. Sì. Quindi, come dire, come anche in questa situazione la reazione è stata prevalentemente portata da organizzazioni di solidarietà, non solo la nostra, non solo Medici Senza Frontiere. Oggi abbiamo comunque, siamo riusciti a portare un team di emergenza alla nostra clinica, sì, e siamo riusciti comunque ad avere una sorta di piccolo pronto soccorso operativo. Sì. La voce che state ascoltando, il racconto che arriva proprio da Moria, isola di Lesbo, siamo a pochi chilometri dalla Turchia, e poi se avremo tempo apriremo anche una piccola parentesi, perché il fallimento delle politiche europee di cui per esempio parlava Paolo Pezzati di Oxfam Italia, dottoressa Scaccabarozzi, un suo collega, facevamo riferimento al grande impegno del terzo settore, a dispetto di, lo dico io, non lo faccio dire a lei, ma dalle sue parole mi sembra di capire, come dire, un leggero colpevole disinteresse da parte delle autorità turche. Ma attenzione, il campo di Moria, costruito e allestito per 3.000 migranti, ne ospita 12.000-13.000, qua stiamo parlando di almeno 5-6 anni di immigrazione continua e di sbarchi che arrivavano dalla Turchia. Che Turchia? La Turchia che ha ricevuto 5 miliardi di euro dall'Europa, dall'Unione Europea, per gestire il flusso dei migranti, e questo è il risultato. È evidente che qualcosa non sta funzionando. Nelle prossime puntate in Nessun Luogo Lontano apriremo il capitolo puramente politico, perché, ripeto, a rischio di sembrare una monotona litania, l'hashtag che mi viene ad utilizzare è semplicemente fallimento, e su questo credo di poter parlare senza tema di smentita. Avete idee, dottoressa, delle cause dell'incendio? Perché secondo le autorità greche, secondo un'indiscrezione della CNN, potrebbe essere stato doloso. Siete riusciti a percepire una qualsiasi indicazione in questo senso? Allora, ovviamente vorrei chiamare tutti alla prudenza, certo, su cercare colpevoli con, diciamo, un processo un pochino sommario. Sì. La situazione che stiamo vivendo da mesi, innanzitutto per questioni banalmente climatiche, cioè non piove da diversi mesi, la geografia ambientale predispone a incendi che sono praticamente quasi quotidiani, sì, quindi questo è il substrato. Oltretutto ieri è stata una notte di vento fortissimo e ancora oggi il vento non si è completamente cessato, quindi diciamo che nella notte banalmente dare fuoco magari a un cestino di spazzatura, sì, come atto limitato avrebbe potuto dare immediatamente conseguenze, certo, conseguenze quindi, molto più nefaste. Mi tratterrei assolutamente, ma peraltro dottoressa Scaccabarozzi, non è certamente il suo ruolo, né in questo volevo forzarla, ma visto appunto che è stato il governo greco nel dare adito a questa, certo, a questa ipotesi, le proporrei una piccola pausa, perché poi un'altra domanda che è strettamente medica, subito dopo l'informazione finanziaria. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati, ascoltatrici e ascoltatori. In questa lunga prima pagina di Nessun Luogo è Lontano, il dramma dell'isola di Lesbo, in particolare il campo migranti di Moria, poche ore fa è andato a fuoco. Ancora non si conoscono le cause. Un ministro greco avrebbe rivelato alla CNN probabile atto doloso, ma come invitava a fare il nostro ospite Giovanna Scacabarozzi, referente medico di Medici Senza Frontiere a Moria, appunto ci vuole tantissima cautela, cosa che non ravviso in alcuni ascoltatori, in particolare Shu, che scrive: certo che l'incendio a Lesbo è doloso, sono i lupi in mezzo al gregge che spingono a costo di qualche vittima per fare pressione nei governi europei per poter essere accolti con compassione. Allora, al di là dell'interpretazione dei lupi in mezzo al gregge, questo icastica metafora che lei utilizza, gentile ascoltatore, starei attento a ostentare queste certezze. Vedremo, ci sarà un'indagine, ci sarà un'inchiesta. Per il momento possiamo solo provare a fare qualche speculazione. Poi rispondo anche a un altro ascoltatore che risponde su Facebook: delle chiusure dei confini volute dall'Unione Europea sono rimasti intrappolati in migliaia nei Balcani, ma per voi il colpevole è solo Erdogan? Lo è negli ultimi anni riguardante l'afflusso dalla costa turca fino alle isole greche, perché avrebbe dovuto fermare i flussi e in molti casi non lo ha fatto. Abbiamo anche parlato di evidente fallimento da parte dell'Unione Europea e delle autorità greche nel gestire questo flusso di migranti. È almeno dal 2015 che ci sono sbarchi continui proprio nell'isola di Lesbo, non per essere autoreferenziale, ma nel 2009 ho constatato esattamente la stessa situazione in tutte le isole, tra cui per esempio Samos, per cui non è una novità quel flusso, e trovarsi impreparati in questo modo francamente lo trovo quantomeno colpevole dal punto di vista politico. Fatemi però tornare da Giovanna Scacabarozzi prima di lasciarlo al suo lavoro, che è sicuramente molto molto impegnativo in queste ore. Vi erano, dottoressa, alcuni positivi al Covid-19. Prima dell'incendio era ben gestito, era gestibile quel piccolo focolaio di Covid, e adesso che conseguenze vede? Allora, questo va spiegato, direi, con una certa, bisogna fare chiarezza su questo punto, perché credo che quanto sia successo stanotte sia strettamente legato alla primissima reazione, secondo me sproporzionata, appunto ad alcuni casi di migranti testati in modo aleatorio nel campo, totalmente asintomatici e riscontrati come positivi, in seguito a esattamente una settimana fa il riscontro di un caso, un solo caso veramente di migrante che era sintomatico e quindi potenzialmente anche più contagioso. E ci tengo ad aprire una parentesi sulla storia di questo paziente, perché trattasi di una persona con uno status di rifugiato riconosciuto, che da Lesbo è stato costretto fondamentalmente ad andarsene, perché nel momento in cui si è riconosciuti i rifugiati oggi a Moria non si perdono quel minimo di benefit, e lo dico con sottile ironia, che si hanno in questo posto. Arrivato nella terra non promessa, che è la terra continentale greca, è rimasto perso come molte altre migliaia di persone oggi, ed è ritornato a Moria perché non sapeva dove altro poter trovare un minimo di rifugio. E contagiatosi appunto nella terraferma, probabilmente ha riportato con sé il virus. Da questo campionamento che è stato fatto in modo così abbastanza aleatorio nel campo, sono stati trovati poche decine di casi positivi totalmente asintomatici su almeno 2000 campioni fatti. Quindi assolutamente situazione che poteva essere gestita con grande calma e grande razionalità. Invece queste persone sono state, senza che venissero innanzitutto rese edotte della loro condizione, delle ragioni per cui venivano poste in un centro di isolamento totalmente inadeguato, che assomigliava più a un centro detentivo, senza dare spiegazioni a loro come alle persone intorno. Questo è stato veramente l'apice di una serie di frustrazioni accumulate da mesi, perché ovviamente i migranti vedono cosa sta succedendo in tutto il mondo, vedono l'accesso alle cure per il Covid che in tutto il mondo si cerca di procurare a chi ne viene colpito, mentre qui ancora una volta è stato usato come pretesto ulteriore per aumentare le maglie del confinamento. E il che quindi ha creato certo anche un'evidente frustrazione. Ricordiamo, la Grecia per anni è stata maglia nera dell'Europa nella concessione del diritto d'asilo, e ricordiamo anche che la maggior parte dei migranti non aveva nessuna intenzione di permanere in Grecia proprio per la totale assenza di possibilità per il futuro. Lo sappiamo, la storia ce l'ha reso molto molto evidente. Si punta soprattutto al nord Europa. Grazie mille alla dottoressa Giovanna Scacabarozzi. è referente medico di Medici Senza Frontiere a Moria. Buona giornata e buon lavoro, dottoressa. Alla prossima. Grazie. Intanto vengo ai vostri tanti messaggi, alcuni andrebbero francamente ripuliti da vituperi, da un linguaggio ignominioso e non lo farò, quindi non avrete la soddisfazione di essere letti, quei pochi, devo dire. Qualcun altro: ci voleva un incendio perché l'Europa si rendesse conto che a Moira la situazione è disumana e vergognosa, speriamo che questa tragedia induca l'Europa a trovare degna collocazione per 12.000 persone, scrive un ascoltatore, in un continente di 500 milioni di abitanti, vergogna per Europa, europei, Parlamento, Governo e Commissione, insomma ce ne ha per tutti questo ascoltatore che denuncia e ponendo anche l'attenzione su quella che sono i dati statistici. Poi vi sono alcuni ascoltatori che in maniera, devo dire, francamente bizzarra ci tratteggiano come alfieri dell'immigrazione. Continuate a parlare di fallimento, immagino che per voi il successo sarebbe stata l'invasione dell'Europa da parte di milioni di profughi e finti profughi. No, il fallimento dell'Europa è quando un paese europeo come la Grecia si trova a gestire un campo profughi di 3.000 persone, fatto per 3.000 persone, ne ha 12.000, la situazione per dura per anni, succede un incendio, si scampa, per fortuna non vi sono morti, non vi sono vittime, avrebbero potuto esserci anche morti greci, la situazione potrebbe, è potenzialmente ancora esplosiva, è assolutamente un fallimento dello Stato di diritto e di come per il momento la Grecia, in particolare l'amministrazione di Lesbo, ha gestito quel campo migranti. Su questo penso che non ci sia discussione. Altro punto, e su questo battiamo da tantissimo tempo, l'Unione Europea ha pagato la Turchia per devolvere il dossier immigrazione alla Turchia e questo non è stato fatto, ne sia prova evidente i continui sbarchi che arrivano sulle varie isolette greche. Ricordo, Samos, siamo a 800 metri dalla costa turca, ancora un po' non ci vuole neanche il gommone, si può fare a nuoto, cosa che è avvenuta e che ho testimoniato in prima persona. Questa è la prima lunga pagina, ci sono tanti messaggi, sostanzialmente un tema super divisivo, questo lo sappiamo, lo sapete perfettamente, ci si divide in quelle due etichette che io aborrisco francamente, fra buonisti e cattivi. Qua lo sforzo credo che vada fatto sia dal punto di vista narrativo, giornalistico, ma anche politico, e che vi invito a fare è cercare di capire la complessità di questo dossier, i tanti attori coinvolti e eventualmente provare a capire quali potrebbero essere le strategie di lungo periodo per la gestione di questo fenomeno. 349-238-6666 per voi. Tra pochissimo gireremo pagina e anche questo tema sono certo che scalderà gli animi, perché ha a che fare con una controffensiva che Pechino sta menando a tutto campo, in diplomazia, nella propaganda, nelle relazioni internazionali e anche sui social media. Vi faccio sentire con Roberta Fisani un piccolo assaggio. Vi do due indicazioni. Accadeva a Pechino, era ieri, sentite qui. La grandezza di una nazione si evince dal fatto che quella nazione non si arrende mai, non molla e non arretra davanti alle difficoltà e ai rischi, ma mantiene infaticabile il percorso che conduce al suo futuro e al suo destino. Il popolo cinese e la nazione cinese, che sono emersi da oltre 5.000 anni di storia, di sviluppo glorioso e di aspre difficoltà, stanno continuando la loro grande marcia di questa nuova era. E niente e nessuno possono frapporsi sulla strada del popolo cinese verso il progresso e verso una vita migliore. Chi ha pronunciato queste parole ieri a Pechino? Ve lo dico subito dopo la viabilità. Nessun luogo è lontano. Ancora una volta ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, le parole roboanti che avete sentito, il suono, lo squillo di fanfare, di trombe, quella fastosa cerimonia che si è tenuta ieri a Pechino ha visto naturalmente come protagonista il leader Xi Jinping. Nella grande sala del popolo di Pechino si è celebrata la vittoria, perché cosa? La vittoria della grande guerra del popolo cinese contro il virus, tra virgolette evidentemente. Sfoggio di retorica, bandiere, è stata conferita la medaglia della Repubblica, che è la massima onorificenza civile cinese, al dottor Zhong Nanshan, il medico che ha coordinato la risposta cinese al Covid-19, ma l'intera cerimonia, come avete sentito da un estratto delle parole di Xi Jinping, è servita sostanzialmente per una pomposa autocelebrazione della superiorità del sistema cinese, mentre in realtà, come sappiamo, sostanzialmente il resto del mondo è ancora paralizzato e immobilizzato nelle sabbie mobili di questa pandemia. Dicevamo, Pechino sempre più isolata, ma che fa sfoggio non soltanto di propaganda, ma anche di attacchi a suon di media, ma anche sfoggio di muscoli sul piano militare. La notte scorsa le truppe indiane e quelle cinesi, questo è un dossier che abbiamo spesso affrontato qui in Nessun Luogo Lontano, si sono scambiate colpi di arma da fuoco sul solito confine, zona della DAC, il tetto del mondo. Non più tardi di 2 mesi fa, lo ricorderete, i soldati dei due eserciti sono scontrati sostanzialmente a mani nude, tra i 20 e i 40 le vittime. E poi parliamo di un altro sfoggio di muscoli, quello più preoccupante. Ne abbiamo dato notizia nei giorni scorsi, c'è in corso un vero e proprio braccio di ferro tra l'Australia e la Cina. La Cina è stato sostanzialmente il primo bersaglio nelle ultime settimane da parte del Ministero degli Esteri e della diplomazia cinese. Lo ricorderete, l'arresto innanzitutto della giornalista australiana Cheng Lei era stata fermata a Pechino con imprecisate accuse di violazione della sicurezza nazionale. Era un anchorman, un anchorwoman, perdonatemi, piuttosto famosa. Poi ne abbiamo dato conto proprio ieri, la fuga sostanzialmente di due reporter australiani che corrispondevano da Pechino e hanno detto: non ci sentiamo più sicuri. Interrogatori a sorpresa, ingressi non autorizzati nelle loro abitazioni. Sostanzialmente l'Australia ad oggi non racconta più la Cina dal di dentro. E allora a quel punto Melbourne ha messo in atto le proprie ritorsioni, espulsi due accademici cinesi residenti lì, e poi ancora il tutto avvolto in un caso di spionaggio dai contorni poco chiari. C'è un'ultimissima storia che tra pochissimo vi racconterò, però prima intanto vi propongo un'analisi, arriva da un autorevole osservatore delle vicende cinesi. Lui è Steve Tsang, è il presidente del Chinese Institute della School of Oriental and African Studies di Londra, è sostanzialmente uno dei principali centri mondiali di studio sulla Cina. La domanda è stata molto semplice: dalla guerra commerciale con gli Stati Uniti, le tensioni con Taiwan e Hong Kong che tanto abbiamo raccontato, le critiche, il fallimento sostanziale almeno nei primi mesi della gestione Covid, la querela con i giornalisti australiani, ma cosa sta accadendo? Pechino è davvero sempre più isolata o sta scegliendo un radicale cambio di posizione nello scacchiere internazionale? Sentite Steve Tsang. I think we have to bear in mind that penso che dobbiamo tenere a mente che dal punto di vista della leadership cinese e del Partito Comunista, questo quadro appare un po' diverso. Quello che il Partito Comunista cinese vede è un mondo che si è dimostrato ingiusto, un mondo che non ha tributato alla Cina il giusto rispetto che Xi Jinping si attende. La Cina sta spingendo molto per ottenere questo rispetto. Ad esempio inviando il ministro degli esteri Wang Yi in visita in Europa per coinvolgere gli europei e mostrare loro il punto di vista cinese. L'aver ignorato le prospettive e le preoccupazioni delle nazioni europee, tuttavia, si è ritorto contro la Cina. Tutto questo essenzialmente riflette un nuovo approccio in politica estera adottato da Xi Jinping. Xi Jinping ha scatenato i cosiddetti diplomatici lupi guerrieri, una generazione di diplomatici che esce dalla Cina semplicemente per affermare che la Cina esige rispetto. E questo atteggiamento confligge con la diplomazia tradizionale e si sta dimostrando controproducente. Prendiamo il caso dei due giornalisti australiani che sono stati costretti ad abbandonare la Cina. Pechino sta provocando l'Australia perché l'Australia ha chiesto a gran voce un'inchiesta internazionale e indipendente sulle origini del Covid-19, qualcosa che non rientra tra i temi che secondo Xi Jinping meritano considerazione. Ed ecco perché l'Australia è stata punita. I giornalisti australiani si sono semplicemente ritrovati in mezzo a questo fuoco incrociato. Le parole di Steve Tsang, presidente del Chinese Institute della SOAS di Londra, tra i principali centri mondiali di studi sulla Cina. Lui è attento un osservatore di tutto ciò che accade non soltanto a Pechino, ma anche le relazioni tra Pechino e il resto del mondo. Abbiamo iniziato questa pagina Nessun Luogo Lontano con le roboanti parole di Xi Jinping, e un ascoltatore scrive al 349-238-6666 perché le parole del governo cinese sarebbero da biasimare, l'orgoglio per il proprio paese è un valore, ma su questo non c'è dubbio, nessuno va a sindacare questo. Sottolineavamo, ma ne abbiamo parlato a lungo con Antonio Talia proprio prima di andare in onda, Antonio lo sapete è il nostro autore, tra i nostri autori di questa trasmissione e ha vissuto 7 anni a Pechino, ha fatto il corrispondente, conosce molto bene quelle dinamiche, e lascia un pochino, stupefatti, ecco, per usare un eufemismo, a volte queste espressioni particolarmente roboranti, autoreferenziali da parte del Partito Comunista Cinese e dell'elite di potere cinese, con l'assegnazione delle medaglie, con la fanfara, quando in realtà poi i primi mesi, per esempio, dell'epidemia Covid-19 ci hanno consegnato tutt'altra verità. E mentre nel frattempo, per esempio, l'Australia chiedeva in voce verità e un'inchiesta che vada a capire le eventuali responsabilità, i ritardi, ne abbiamo parlato tantissime volte, per cui non biasimiamo assolutamente le parole del governo cinese. Quello che lascia stupefatti è questa, lo ripeto, roboante autoreferenzialità, come se Pechino fosse in una bolla, come se Xi Jinping si fosse un po' ritirato. Quella grande proiezione internazionale, il grande progetto di Via della Seta, di questo peraltro parlerà anche Steve Tsang in una delle prossime risposte. La domanda sostanzialmente è: cosa sta accadendo alla Cina? Tutti questi bracci di ferro, lo dicevamo, Taiwan, Hong Kong, la guerra dei dazi con Trump, questa con l'Australia, è come se le misure di politica estera adottate adesso da Xi Jinping cambiassero radicalmente rispetto a quelle dei predecessori. Ancora la voce di Steve Tsang. Il vecchio approccio cinese alla diplomazia si basava sui principi stabiliti da Deng Xiaoping più di 30 anni fa. Deng Xiaoping, andando alla radice del suo pensiero, sosteneva che il governo cinese dovesse nascondere le sue capacità e aspettare il momento giusto finché la Cina fosse stata in grado di affermarsi a livello globale. Le leadership successive a quelle di Deng Xiaoping, ossia le leadership di Jiang Zemin e di Hu Jintao, concordavano con le idee di Deng e si adeguavano alla sua dottrina. Ma dal momento in cui è diventato leader, Xi Jinping ha deciso che il momento della Cina è arrivato, che il momento della Cina è adesso, che la Cina non ha più bisogno di nascondere la sua forza e aspettare il suo tempo. Ed ecco perché la Cina di Xi Jinping ha adottato un approccio molto più deciso. Con il consolidamento del suo potere, avvenuto nel 2017 al 19° congresso del partito, Xi Jinping sente di aver completamente ottenuto il controllo sul fronte interno e ritiene che la Cina abbia raggiunto un potere tale da poter essere usato davvero efficacemente. Questo processo, ovviamente, è stato agevolato dall'arrivo di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti, che ha ridotto la capacità americana di fornire una leadership all'Occidente democratico. Gli effetti della crisi economica globale del 2008 hanno dimostrato quanto sono superficiali le capacità delle nazioni occidentali. Dopo la debole risposta di Stati Uniti e nazioni europee alla crisi da Covid-19, Xi Jinping ha avvertito che non esistono più ragioni perché la Cina non debba mostrarsi risoluta. Ed è questo il processo che si sta svolgendo davanti ai nostri occhi. Su questo gioca anche un importante fattore interno. A gennaio e febbraio, mentre la Cina subiva duramente gli effetti dell'epidemia, si diffondevano molti interrogativi sull'effettiva capacità della leadership cinese di affrontare la situazione. Il Covid-19 veniva percepito come un punto di non ritorno e rappresentava un enorme timore per Xi Jinping e per il suo ruolo di uomo forte della Cina. Dopo che l'Italia, gli Stati Uniti e poi molte altre nazioni occidentali hanno ottenuto risultati molto più scarsi della Cina, Xi Jinping ha voluto cambiare completamente la narrazione dell'epidemia. Ha cercato di incolpare gli americani, gli italiani e altri per il Covid-19. Quando sul fronte esterno si viene respinti, si ha gioco facile nel capitalizzare sul fronte interno. Xi Jinping ha diffuso l'idea che il popolo cinese avrebbe dovuto essere grato e fiero della sua leadership, perché senza di essa la Cina sarebbe diventata il capro espiatorio di Stati Uniti ed Europa. Gli altri non sono in grado di gestire l'epidemia, è il messaggio di Xi Jinping. Ed ecco perché ci attaccano ingiustamente. Insomma, dalla prospettiva cinese, tutto ha funzionato bene. You're fired.